pace. Scontri di Roma, arrestato il ragazzo con l'estintore, polizia in piazza contro i tagli alla sicurezza, morto il poeta Andrea Zanzotto. Buon pomeriggio da Anna Rita D'Ambrosio e dalla redazione, questi dunque i nostri titoli. La notizia in primo piano, l'avete sentita, è stata battuta da pochissimo dalle agenzie, riguarda il caso Mediatrade. Il GUP di Milano, Maria Vicidomini, ha prosciolto per non avere commesso il fatto Silvio Berlusconi, che era imputato con altri appunto per il caso Mediatrade. Sono stati rinviati a giudizio tutti gli altri, quindi prosciolto solo il Premier, anche il figlio del Premier Pier Silvio e Fedele Confalonieri. Una vicenda evidentemente che svilupperemo nel corso delle prossime edizioni del GR. Adesso parliamo della notizia che è arrivata da Israele e che domina tutte le prime pagine dei principali siti italiani ed esteri mondiali, cioè la liberazione in Israele di Gilad Shalit. Dopo 2000 giorni di prigionia, il caporale israeliano, prigioniero dal 2006, è stato rilasciato nel territorio egiziano a fronte di uno scambio con 1.027 prigionieri palestinesi. Che cosa cambia adesso? Lo chiediamo e lo ringraziamo ad Ugo Tramballi, che è in collegamento con noi del Sole 24 Ore. Ugo. Buongiorno, ma sostanzialmente non cambia nulla. Oggi c'è stato un avvenimento dal punto di vista umano ed emotivo molto importante per il giovane Gilad Shalit, che è già in elicottero, è stato portato in territorio israeliano, e anche per quegli uomini e quelle donne palestinesi che per il momento sono già stati liberati. Ma dal punto di vista del conflitto israelo-palestinese non cambia nulla, è stato un episodio sostanzialmente di cronaca che si conclude oggi, e domani il conflitto riprende come al solito, come sempre, cioè molto lontana ancora la trattativa di pace, e un avvenimento come questo dovrebbe forse rendere più facile il ritorno alla trattativa, ma dubito che questo avverrà, perché i nodi sono ancora assolutamente lontanissimi da un qualsiasi scioglimento. Abbiamo visto Shalit in questa prima intervista che ha rilasciato la TV egiziana, è apparso in ottime condizioni di salute. Lui ha detto: Hamas mi ha trattato bene, ora la pace. Anche Napolitano poco fa è intervenuto sulla liberazione di Shalit, sperando che questo sia seme per un dialogo. Sì, appunto, è il desiderio di tutti quanti, che Shalit, per esempio, potrebbe, in un mondo migliore, Shalit potrebbe essere un magnifico messaggero di pace, spiegare che anche Hamas, anche una parte di Hamas, è una parte con la quale si può negoziare. Ma questo non è il mondo migliore, e in realtà tutte queste speranze comprensibili saranno assolutamente vanificate già domani dall'impossibilità di riportare israeliani e palestinesi al negoziato, anche perché manca la volontà politica e leadership capaci di farlo. Grazie ad Ugo Tramballi per questa analisi, lo avete sentito amara, perché le possibilità concrete di cambiamento non ci sono. Noi passiamo a parlare degli scontri di Roma. Oggi arriva la risposta del governo mentre proseguono le perquisizioni e i controlli. Maroni interverrà nel pomeriggio in Senato e noi siamo in collegamento con Roma con Andrea Viali. Andrea. Sì, nella sua informativa a Palazzo Madama nel pomeriggio il ministro dell'Interno farà innanzitutto il punto sugli scontri di sabato, ma il responsabile del Viminale ha già annunciato che presenterà anche una serie di provvedimenti contro le violenze di piazza. A chiedere una legge reale bis, una legge simile cioè a quelle che erano in vigore negli anni di piombo, ieri era stato anche Di Pietro dell'Italia dei Valori. Oggi però il ministro della giustizia Palma spiega che Maroni non starebbe pensando a leggi speciali, ma solo a nuove misure per rendere più incisiva l'azione delle forze dell'ordine. Tra queste nuove misure potrebbero esserci anche il DASPO esteso alle manifestazioni, i fermi preventivi e l'arresto in flagranza differita per i violenti individuati grazie ai filmati. E proprio grazie alle immagini oggi la Digos ha fermato a Roma uno dei giovani che hanno partecipato agli scontri di sabato. È uno studente, ha 24 anni, si chiama Fabrizio Filippi e ha qualche precedente per droga. Era stato fotografato mentre lanciava un estintore verso le forze dell'ordine. La sua foto oggi tra l'altro è sulle prime pagine di alcuni giornali ed è una foto molto simile a quelle che ritraggono Carlo Giuliani, lo ricordiamo, il giovane ucciso nel G8 di Genova. Agli agenti che lo hanno prelevato nel suo appartamento, Filippi si è giustificato dicendo di aver usato quell'estintore per spegnere un incendio. Il giovane ora è accusato di resistenza pluriaggravata. A te la linea. Grazie Andrea. Nel 1978 la legge reale fu sottoposta a referendum anche sotto la pressione dei parenti di chi era rimasto ucciso dalle forze dell'ordine per effetto di quella normativa che, lo ricordiamo, ampliava il numero di casi in cui era legittimo l'uso delle armi di ordinanza. Il referendum abrogativo che si tenne a poco più di un mese dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro in via Caetani non passò e la legge rimase in vigore. Ha senso ripristinare oggi delle normative così pesanti? Si dice contrario l'ex presidente della Camera Luciano Violante al microfono di Maria Luisa Pezzali. Io credo che nessuna legge reale può dare a un poliziotto di 55 anni la velocità sufficiente a raggiungere un ragazzo di 18. La mia impressione è che occorre innanzitutto rinvigorire i mezzi delle forze di polizia, riaprire i concorsi e far entrare forze nuove all'interno dei corpi di polizia e dopo poi guardare le questioni delle leggi, perché nessuna legge potrà sopperire agli enormi vuoti di organico e alle mancanze di mezzi che hanno le forze di polizia oggi. I problemi normativi non risolvono i vuoti di mezzi e di risorse, danno un alibi a volte alla politica per dire che abbiamo provveduto. Il fermo di polizia per 48 ore, come era lì, era anche una misura non compatibile con i principi di Costituzione, infatti fu provvisoria, poi fu abbandonata, anche perché non serve a nulla, devo dire. Qui non c'è il terrorismo, qui c'è un'altra cosa. Per combattere un fenomeno bisogna capirlo. Non possiamo prendere un modello che valeva per il tipo di manifestazioni di 30 anni fa e portarlo ad oggi pensando che sia utilizzabile. Favorevole invece Filippo Ascierto, parlamentare PDL, sostenitore della linea dura anche ai tempi del G8 di Genova. Bisogna trovare una soluzione. Se la legge reale ai suoi tempi ha dato effetti positivi nel contrasto e nella prevenzione ai fenomeni di violenza, perché non prenderla in considerazione? Io ritengo che possa essere una soluzione quella di impedire che alle manifestazioni si porti i caschi, che si vada travisati, che si possono avere oggetti che possono diventare vere e proprie armi improprie. Per cui ritengo che la legge reale in alcuni aspetti, casomai non in tutto, perché la legge reale mirava anche e soprattutto ai fenomeni terroristici, può avere un suo valore in questo momento. E il problema oggi è anche un altro e riguarda i tagli alla sicurezza. Indignati sono anche i poliziotti che stanno manifestando in piazza a Roma. Alessandra Schepisi ne ha intervistati alcuni. Oggi noi siamo qui perché vogliamo lanciare un segnale ai cittadini e alla classe politica per dire che le forze dell'ordine, la polizia in particolare, non ce la fanno più a causa dei continui tagli. Manca la carta negli uffici, mancano i soldi per riparare le auto rotte, mancano i soldi per assumere noi poliziotti, mancano i soldi per comprare gli scudi nuovi per i colleghi che devono andare in ordine pubblico come è successo sabato. Una vergogna, il governo praticamente ci ha abbandonati. Ci ha abbandonati perché non ci sentiamo tutelati, poi ha fatto dei tagli in settori dove non doveva farli. Io appartengo alla Polizia Penitenziaria e abbiamo dei problemi molto pesanti, sia come personale che in tutta Italia siamo arrivati quasi a 7.000 unità in meno. I carceri sono sovraffollati, quindi c'è un'emergenza in corso e loro come istituzioni non sono presenti. Un'emergenza che riguarda il paese intero. La protesta era partita da Modena, dove tempo 3 o 4 settimane la polizia rimarrà senza benzina. Stamattina c'è stata un'iniziativa molto particolare, la distribuzione ai passanti di bollettini postali precompilati per recepire soldi appunto per solidarietà. E allora noi lo ringraziamo, lo abbiamo in collegamento con noi, Bruno Fontana, segretario provinciale del SIULP di Modena. Innanzitutto Fontana, grazie per aver accettato il nostro invito. Come è andata la manifestazione di questa mattina? Prego, grazie a voi. Niente, guardi, al di là di ogni più rosea aspettativa, nel senso che siamo rimasti sbalorditi noi sul fatto che i cittadini ci cercavano, abbiamo letto sui giornali fate questa cosa, venivano con i soldi in contanti, addirittura ve li voglio mettere. Quindi per noi è un successo clamoroso, direi, su questa iniziativa, perché abbiamo proprio sentito la solidarietà dei cittadini che hanno capito il perché stavamo in piazza. 3 o 4 settimane resterete senza benzina, è questo il problema, cioè uno dei tanti forse? Sì, esatto, uno dei tanti, però attualmente il principale, nel senso che se non succede qualcos'altro, che non recuperano fondi stanziati da altri enti, noi rimaniamo a piedi, e questo è un dato di fatto, quindi siamo in attesa, noi quello che potevamo fare adesso l'abbiamo fatto, siamo scesi in piazza, abbiamo fatto questa raccolta simbolica di un euro, qualcuno addirittura ha versato 100 euro in un bollettino postale, quindi i cittadini dimostrano che sono attenti, cioè, ci vogliono la presenza del poliziotto in mezzo alla strada, quindi questo potevamo fare e questo noi l'abbiamo fatto. I cittadini rispondono alle istituzioni ancora no, grazie a Bruno Fontana, segretario provinciale del SIULP di Modena. Nella capitale sono stati vietati i cortei per un mese dopo gli scontri di Roma e i riflettori sono puntati adesso sui NoTav che torneranno a scendere in piazza domenica prossima. Si teme per gli scontri violenti che potrebbero caratterizzare il corteo NoTav di domenica in Val di Susa, nell'area recintata tra i boschi di Giaglione e Chiomonte, dove tra un mese dovrebbe partire lo scavo del tunnel esplorativo. I NoTav, si legge nel documento del movimento online, marceranno per tagliare le reti, per aprire varchi nel recinto, per riaprire, si legge, spiragli di democrazia. Le forze dell'ordine temono l'inasprirsi dello scontro e alcuni esponenti del mondo politico chiedono che la manifestazione di domenica non venga autorizzata. Ad avanzare questa richiesta è stato il coordinatore piemontese del PDL Enzo Ghigo. Il presidente della regione Piemonte Roberto Cota della Lega Nord invece si appella ai valsusini chiedendo che diventino garanti contro i violenti, posizione sostenuta anche dal sindaco Fassino. Ma il Partito Democratico va ben oltre perché dovrebbe dare come indicazione quella di non andare alla manifestazione di domenica. Sta prendendo piede infatti la teoria secondo la quale ci sarebbe un collegamento tra i violenti che hanno devastato Roma e i NoTav della Val di Susa. Ovviamente una ricostruzione che viene respinta dai NoTav. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per gli scontri di Roma volano accuse e sospetti, i centri sociali si spaccano e una parte accusa il leader di SEL Nichi Vendola di aver promesso posti in Parlamento agli indignati. Dopo la piazza, la corsa al Parlamento. Con questi sospetti rischia di spaccarsi il fronte dei movimenti scesi in piazza sabato. L'accusa è quella mossa da aderenti di quegli stessi gruppi, attraverso internet e social network, ai cosiddetti dialoganti, ovvero, secondo i racconti della rete, ex teste calde che invece di appoggiare gli scontri avrebbero scelto di cercare passaggi verso la politica attraverso il partito di Vendola, Sinistra, Ecologia e Libertà. Il web ipotizza addirittura scenari di carriere politiche già decise. A mercanteggiare le poltrone sarebbe stato anche Nicola Fratelli Toianni, assessore alle politiche giovanili pugliesi ed esponente di SEL, che però nega. SEL ha siglato un patto, l'ha siglato con le centinaia di migliaia di persone che hanno manifestato pacificamente a Roma, un patto in termini, diciamo, metaforici, un patto politico. Trattare tutto questo con qualche dietrologia, come qualcuno, diciamo, sta facendo, credo che quel qualcuno sia lo stesso che ha devastato Roma. Quanto le accuse nascano dai fatti o dall'insoddisfazione di quei violenti che si sono sentiti traditi dai loro stessi compagni, difficile dirlo. Certo che l'offerta di seggi non viene del tutto smentita da uno dei presunti dialoganti, Andrea Alzetta, detto Tarzan, storico leader di Action. Da questo punto di vista, stavolta gli stiamo dicendo a sé: non basta che tu candidi qualcuno di noi dentro e poi però ti allei con un governo che non fa nulla di quello che era nei programmi del movimento. Non ci interessano le poltrone, ci interessa che ci sia veramente un programma di alternative e non di alternanza in questo paese. Barbara D'Amico, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le 13:17, Berlusconi, Todi, strumentalizzata dai cattolici, non è arrivata alcuna spallata al governo, premier prosciolto per il caso Mediatrade. Israele, Gilad Shalit torna libero, Hamas mi ha trattato bene, ora la pace. Gli scontri di Roma, arrestato il ragazzo con l'estintore, polizia in piazza contro Italia alla sicurezza. È morto il poeta Andrea Zanzotto. Ancora una buona giornata da Narita D'Ambrosio e dalla redazione. Partiamo proprio da qui, da questo nostro ultimo titolo. È morto il poeta Andrea Zanzotto, ricoverato da alcuni giorni all'ospedale di Conegliano. Il poeta trevigiano aveva festeggiato 90 anni il 10 ottobre scorso ed il ricercatore Francesco Carbognin proprio 2 settimane fa era stato a casa di Zanzotto e aveva registrato alcune poesie. Sentiamo la sua voce. Possibile che non sia dato compiere la più minuta azione senza che il tempo venga a riscuotere usuraio atroce, la sua parte, con interessi sempre più spropositati, esponenziali, demenziali, ogni giorno di più, da capogiro, sempre più rapidi, rapienti capogiri. Sul sito culturale del Sole 24 Ore, nella rubrica Rime Private, trovate altri contributi di Zanzotto registrati da Carbonina. Ne passiamo alla pagina politica. La notizia di Berlusconi l'abbiamo data in apertura di questa edizione: è stato prosciolto a Milano sul caso Mediatrade. Sono stati invece rinviati a giudizio il figlio e fedele Confalonieri. Berlusconi oggi aveva emesso una nota molto importante dopo il forum di Todi. Nella politica e nell'informazione, scrive Berlusconi, la dignità dovrebbe consigliare a tutti di non rovesciare la verità. Secondo certi giornali, Bagnasco avrebbe presieduto un convegno destinato a dare una spallata al governo. È il contrario esatto della verità, ha scritto appunto il Presidente del Consiglio in una nota. L'associazionismo cattolico riunito a Todi, questo c'è scritto su tutti i giornali, ieri aveva chiesto una svolta. Sentiamo al microfono di Katia Caramelli Luigi Marini, Presidente della Confcooperative. È stato questo momento di riflessione necessario per trovare dal dopo la guerra un momento più unitario tra tutte le organizzazioni che si rifanno alla dottrina sociale della Chiesa. Sulle terapie, come dire, abbiamo avuto dei momenti di divergenza. Si può dire che comunque c'era un filo conduttore, e cioè che il governo attuale ormai non può andare avanti? Il giudizio sul governo non è stato dato in questi termini, non per fare marcia indietro, è stato dato un giudizio sulla politica in senso lato. È stato detto che c'è un'estrema sproporzione tra il punto basso che ha raggiunto la politica nel nostro paese e il punto alto delle sfide che dobbiamo fronteggiare, che sono sfide economiche, la crescita bassa da 20 anni, la bassa produttività, la stanchezza demografica, la necessità di una scuola più eccellente, per non parlare poi ovviamente delle sfide mondiali, europee, della crisi morale, eccetera. Questa sproporzione determina l'urgenza di fare qualcosa, e qui ci siamo. Come dicevo prima, abbiamo terapie diverse, insomma. Ma resta il fatto che comunque per andare avanti serve qualcosa di nuovo. Su questo non c'è il minimo dubbio. I risultati poi si vedono, non sono soltanto riferiti a una crescita che è quella che è, ma ahimè dobbiamo prendere atto che gli spread segnalano anche una crisi di credibilità complessiva del nostro paese, e quindi la necessità che ci sia un cambiamento. C'è ancora la tentazione di ricostituire una sorta di partito dei cattolici? Se c'è, è molto minoritaria e non si è vista. Questa dunque l'intervista fatta dalla nostra Katia Caramelli. Questo tema del ruolo dei cattolici in politica è oggi centrale, ne ha parlato anche Alfano. Alfano ha detto: non credo ad una nuova democrazia cristiana perché i cattolici si riconoscono nel PDL. Noi lasciamo la politica per l'economia, le borse che oggi sono tutte in calo. A Piazza Affari al momento FTSE MIB -0,11, la borsa che perde di più è quella francese, -1,70. Perché? Perché Moody's ha messo sotto i riflettori il rating della Francia per un possibile declassamento. E poi sono arrivati anche dei dati dalla Cina un po' contrastanti. Proprio di questi dati noi parliamo e lo ringraziamo con il presidente dell'Osservatorio Asia, Alberto Forchielli. Buona giornata. Buonasera. Allora, partiamo dunque da questi dati. C'è un dato sul PIL che è in calo, non in forte calo però. Era nel primo trimestre al 9,7, nel secondo trimestre al 9,5, adesso al 9,1 nel primo trimestre. Però poi rispetto a questi dati, che sono dati leggermente in calo, c'è un dato sulla produzione industriale che è aumentata del 13,8%. Come possiamo commentarli, Forchielli? C'è qualche problema forse nel collegamento telefonico dalla regia, non sono in grado di fornirmi ulteriori dettagli. Mi sente, Forchielli? No, ci deve essere qualche problema. Noi riproviamo comunque a chiamarlo per questi dati, che sono dati che hanno contribuito a far calare le borse, insieme anche ad una Germania che in effetti non cresce ancora moltissimo. I dati che arrivano da Francoforte di Borsa danno anche in questo caso il segno -0,43 il dato in questo momento. Noi vediamo se riusciamo a rintracciare Alberto Forchielli, presidente dell'Osservatorio Osservatorio Asia per un commento sui dati cinesi. Mi dicono dalla regia che in questo momento non è possibile, i dati di borsa li avete ascoltati. Noi siamo allora alla noi ci trasferiamo a Bruxelles, parliamo di nuova cooperazione europea. EU provides 60% development aid. L'Unione Europea assicura il 60% delle donazioni in favore dei programmi di sviluppo e siamo senza dubbio i primi sostenitori degli obiettivi del millennio che tutti e 192 gli Stati membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere entro il 2015. Andris Piebalgs, 54enne lettone e commissario europeo allo sviluppo, ha presentato il suo programma di cambiamento della politica dell'UE, insistendo sulla necessità di eliminare gli interventi a pioggia, favorire invece settori fondamentali per la crescita a lungo termine. Per qualsiasi iniziativa, dice il commissario europeo, è indispensabile seguire le prassi di buona governance, compresi il rispetto dei diritti umani, della democrazia, dunque la parità tra i generi, una partita tutta da giocare, ma anche il ruolo della società civile, la lotta alla corruzione che ha divorato enormi quantità di denaro deviando l'aiuto destinato a molti nelle tasche di pochi. 12 punti per una nuova rotta della cooperazione comunitaria che non è immune dai problemi di cassa. In tempi di crisi, Pieval si è detto pronto a esplorare sistemi innovativi di finanziamento con la combinazione di sovvenzioni e prestiti, un percorso obbligato in vista della presentazione prevista per la prossima primavera della nuova politica europea. Con i nuovi meccanismi, Bruxelles cercherà di sviluppare un approccio comune e rafforzare il coordinamento tra gli Stati membri, tradizionalmente gelosi della propria autonomia in un campo che resta una chiara estensione della politica estera nazionale. Gigi Donnelly, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La nostra rubrica Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Il Paese Sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. L'episodio più eclatante e scandaloso tra quelli recenti è avvenuto in provincia di Foggia, dove un avvocato è stato pizzicato dalla Guardia di Finanza dopo aver evaso una somma complessiva di 200.000 euro. Il professionista pugliese per alcune annate aveva dichiarato all'erario compensi che addirittura non superavano i 3.000 euro lordi l'anno. Non è un caso solitario. Perfino in città come Milano e Roma l'evasione è straordinariamente diffusa. Sicuramente per gli avvocati che seguono la giustizia civile, ma anche per quelli impegnati nel penale, comprese le cause di Tangentopoli e dintorni. Incredibile forse, ma vero. Infatti i controlli portati avanti dall'Agenzia delle Entrate in tutta Italia nell'ultimo anno e mezzo hanno accertato maggiori imposte evase dalla categoria degli avvocati per oltre 125 milioni di euro. Come fanno? Non emettono fatture, utilizzano praticanti in nero e gonfiano i costi, come spiega Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Il reddito medio anno è pari a circa 44.000 euro. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo sport e il calcio, stasera Inter e Napoli, entrambe sconfitte in campionato, inseguono il riscatto in Champions League, vero Dario Ceccarelli? Proprio così, soprattutto l'Inter, perché viene da un campionato un po' disastroso, ormai penultima in classifica. Ma cominciamo dal Napoli, perché è la partita diciamo più di cartello, nel senso che il Napoli gioca col Bayern Monaco, che è la così grande attesa perché la squadra tra le più celebri della Champions League. Il Napoli diciamo che vuole la partita perfetta, lo sostiene Mazzarri, che è uno che sa motivare molto bene i suoi giocatori e sta cercando di caricarli al massimo. Sentiamo Mazzarri. Per poter pensare di fare un risultato positivo con queste squadre a questo livello, bisogna poi che venga fuori la partita tra virgolette perfetta per noi. Il Napoli punta molto alla Coppa, è l'obiettivo del suo presidente De Laurentiis, insomma farà tutto possibile, anche se coi tedeschi c'è poco da scherzare, sono i primi nella Bundesliga, prima nel girone, quindi sarà un incontro di grandi scintille. Ricordiamo che ieri ci sia stato anche l'accoltellamento di due tifosi tedeschi, sono stati soccorsi, adesso è tutto a posto, però è una partita di grande allerta. Per l'Inter dicevamo che è storia diversa, nel senso che l'Inter deve cercare di andare in Francia per riscattare un campionato che finora è molto deludente. Ranieri si aggrappa a Schneider proprio per invertire questa tendenza e l'olandese si muoverà da trequartista dietro le punte e questo dovrebbe aiutare la squadra a rimettersi in carreggiata. Sentiamo Ranieri. diretta. Difficile perché il Lille è la squadra più prolifica del campionato francese, è una squadra che gioca molto bene, ha tre giocatori là davanti che fanno la differenza, a centrocampo Pedretti che è un signor giocatore insieme a Baumont, per cui è una squadra che gioca in maniera fluida, gioca la francese, un calcio frizzante, e noi cercheremo di interrompere le loro catene di gioco per cercare noi di approfittarne e creare noi le nostre opportunità. Sì, insomma, bisogna interrompere soprattutto questa catena negativa, e Ranieri sa che prima o poi il temporale passerà e quindi sta cercando anche di rasserenare i suoi giocatori. Staremo a vedere tutto per questa edizione, grazie regia Roberto Scaltritti, vi lasciamo in compagnia di Italia in controluce, il GR torna alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Fabio Tamburini.